Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Con Industria 4.0 si intende un nuovo paradigma produttivo dove la penetrazione della rete dei sistemi esperti nella fabbrica è tale per cui un gran numero di decisioni che riguardano sia le singole lavorazioni sia l'organizzazione e la gestione della produzione nel suo complesso vengono sostanzialmente affidate all'automazione. Naturalmente per arrivare a tanto serve che la fabbrica sia composta interamente da macchinari intelligenti in grado di comunicare e di coordinarsi tra loro, scenario che oggi si realizza solo in pochissimi, praticamente in nessun caso, ma che offrirebbe enormi vantaggi, questo grazie anche ad alcune tecnologie chiave come la stampa 3D, vantaggi in termini di flessibilità della produzione, riduzione degli errori, produttività che aumenta. Stati Uniti e Germania sono fortemente impegnati, anche altri stati, a sviluppare l'industria 4.0. Ebbene, ci domandiamo a che punto siamo in Italia? Cerchiamo di rispondere a questa domanda con l'aiuto di Giovanni Miragliotta, che è professore di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, dove dirige anche l'osservatorio sullo smart manufacturing, che poi è un altro modo di dire Industry 4.0. Buonasera Miragliotta. Buonasera a lei. Allora, senta, io vabbè, l'ho fatto un po' semplice sullo smart manufacturing, che in realtà è una roba molto articolata, non so se ci vuole aggiungere qualche dettaglio. Lei ha dato una buona definizione, in realtà io lo condisco un po' con un po' di sale, un po' di pepe qua e là. La prima cosa da aggiungere è il lavoratore, la persona. Nello smart manufacturing non ci sono solo le macchine, l'uomo è un pezzo essenziale della visione manufatturiera del futuro. Speriamo, sì. lo sarà. E alcune delle tecnologie che sono alla base dello smart manufacturing, come tutti i sistemi dialettica tra l'uomo e la macchina, ruotano proprio attorno all'idea di un operatore aumentato, più capace, no? Meglio supportato nelle decisioni. E l'altro aspetto essenziale da aggiungere è che le tecnologie che costituiscono lo smart manufacturing sono tecnologie che operano soprattutto per interconnettere sia i macchinari, come giustamente lei diceva, ma anche le informazioni, i dati che ci sono già, e quindi raccoglierli, sfruttarli meglio, incrociarli, spremere quella conoscenza che poi è essenziale per le operazioni di pianificazione, gestione della fabbrica, della catena del valore, pianificazione della manutenzione, eccetera. Lo smart manufacturing è riuscire a far funzionare meglio, grazie all'interconnessione digitale, persone, macchinari e dati che già adesso sono disponibili. In qualche modo sono già disponibili oggi, ma che non vengono appunto messi a sistema. Senta, a proposito di dati, parliamo di dati, quelli che sono venuti fuori dalla vostra ricerca. Intanto partiamo dal livello di conoscenza di questa tematica nell'impresa italiana. Sì, qui sono venute fuori, noi abbiamo fatto una survey piuttosto ampia che ha toccato diverse centinaia di aziende, e sono venute fuori, diciamo, un'immagine a due facce dell'industria manifatturiera italiana. In primo luogo c'è una porzione purtroppo abbastanza ampia, quasi un terzo dei rispondenti, che dichiara di non conoscere. Diciamo che non l'ha proprio sentita nominare sostanzialmente. Non l'ha proprio sentita nominare. E via. Poi però c'è una frazione di imprese piuttosto ampia, 29-30%, che ha già attivato diverse iniziative, tre o più, diverse iniziative di adozione di tecnologie smart, a quali però forse manca la capacità di averle lette nell'ottica di un progetto organico, no? Di una lettura organica. Cioè stanno facendo una roba, diciamo, di smart industry, ma sostanzialmente non lo sanno. Sì e no, diciamo che hanno stanno iniziando ad adottare le nuove tecnologie, ma non le hanno composte in quella visione appunto articolata, organica, di interconnessione, che è poi l'essenza di un progetto di digitalizzazione dell'industria. E abbiamo così curiosamente voluto denominare questi due estremi del nostro campione come coloro che almeno sanno di non sapere, i primi, e coloro che non sanno di sapere, un po' ok, e poi c'erano quelli che non sapevano e basta, l'abbiamo detti all'inizio sostanzialmente, no? Vediamo i dati di mercato. I dati di mercato sono molto incoraggianti. L'Italia già adesso in progetti di smart manufacturing fa girare un valore economico di circa 1,2 miliardi di euro, che noi reputiamo significativo, innanzitutto per la novità del tema. In secondo luogo perché anche confrontandolo con gli investimenti delle imprese industriali, già incuba quasi un 10% rispetto a tutti gli investimenti delle nostre imprese industriali e manifatturiere. E poi perché in questo primo anno abbiamo concentrato il focus della nostra stima su un cluster di tecnologie, quello più vicino al mondo delle information technology, ma c'è un altro ampio mondo di tecnologie, il mondo delle operational technology, quindi l'automazione, la stampa 3D, che lei citava prima, che sono un po' embrionali, ma che già comunque sarebbero dando il loro contributo e sarebbero un ulteriore addendo. Quindi ci sembra una situazione non negativa. Consideri che l'Italia è anche un paese non soltanto manifatturiero, nel senso che produce prodotti, ma siamo molto forti nella nelle macchine utensili proprio. Esatto, mezzi di produzione tutto tondo, macchine utensili, sistemi di movimentazione, grandi impianti. Questo settore quindi è già attento a queste tematiche, perché connettere il macchinario che loro producono, analizzare i dati del macchinario che esse producono, significa portare un vantaggio competitivo proprio di capacità di prodotto, e dunque l'Italia non lo sta trascurando questo aspetto. Va bene, allora grazie professor Miragliotta. Grazie a lei, buonasera e buon lavoro.